La campagna AGEOP, dedicata alla giornata mondiale di lotta al cancro infantile, il suo obiettivo quest'anno è quello di raccogliere 50.000 euro necessari a garantire per 2 anni un progetto di ricerca scientifica all'interno del laboratorio di ricerca diagnostica del reparto di oncologia pediatrica in cui AGEOP lavora da quasi 40 anni. È un progetto che viene condotto da Jessica Bandini, una ricercatrice che ha una storia che si intreccia con quella di AGEOP, perché prima di diventare biologa è stata una nostra bambina e ha deciso di rimanere perché sarebbe arrivato dopo di lei per garantire sempre migliori standard di vita e di cura ai bambini che si ammalano di tumore. Il progetto di Jessica si inserisce all'interno di un accordo quadro più ampio, 17 progetti di ricerca scientifica che AGEOP si è impegnata a sostenere per 5 anni con un impegno complessivo di circa 2 milioni di euro, quindi abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti per riuscire a mantenere questo impegno fondamentale. Quali sono stati i principali traguardi raggiunti dall'associazione in anni passati, quali i futuri se ce ne sono già? Noi abbiamo sempre intrecciato la nostra storia con quella del reparto di oncoematologia pediatrica. Abbiamo investito direttamente molte risorse anche per la realizzazione di questo reparto, quindi quando voi passate da via Massarenti, se guardate il quarto e quinto piano della pediatria, quella è un importante traguardo raggiunto da AGEOP insieme a tutte le istituzioni e insieme a tutta la città. L'anno scorso con l'Otto anch'io ci eravamo prefissati l'obiettivo di realizzare una tea room in reparto, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo inaugurata, quindi siamo fiduciosi quest'anno di poter sostenere questo progetto di ricerca scientifica grazie a tutti quelli che vorranno prendere parte alla cura. E quali sono i principali eventi, progetti in atto per questa campagna 2020? Già domenica 2 febbraio saremo in Piazza Maggiore tutto il giorno con una grande giornata di festa dedicata all'infanzia, attività per bambini, da attività sportive, creative, ludiche, spettacoli teatrali, tutti gratuiti o comunque offerta libera per chi vorrà contribuire all'Otto Anch'io. È una campagna di crowdfunding sempre aperta online fino al 1 aprile su Idea Ginger per sostenere l'Otto Anch'io, e poi uno spettacolo teatrale il 7 febbraio con Andrea Cosentino, e poi tanti appuntamenti per cui vi rimando al sito di AGEOP, che è ageop.org. Ok, chiudiamo con un piccolo briefing. Come nasce l'associazione AGEOP? L'associazione AGEOP è un'associazione di genitori di oncoematologia pediatrica che all'inizio degli anni 80 decisero di mettersi insieme per dare concretamente forza al concetto di alleanza terapeutica, cioè di far sì che intorno ad un bambino ammalato di tumore ci siano tutta una serie di soggetti e competenze che vanno dai medici ai ricercatori, ai biologi, agli psicologi, ma anche ai volontari e a professionisti che sostengano la cura del bambino, guardando al bambino appunto e non alla sua malattia. È nata dentro a questo reparto, è nata alleandosi con i medici di questo reparto e insieme al reparto siamo cresciuti.